Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Sono le 8, 18 minuti e 15 secondi. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, questa è la terza parte di 24 Mattino di martedì 20 ottobre. Al microfono sempre Simone Spezia, a partire dalle 8.35 nello spazio dedicato alle interviste, agli approfondimenti. Avremo il sottosegretario all'interno Achille Variati per fare un punto su queste... su questo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e su questa tensione con i sindaci. Chi deve decidere se chiudere una piazza o una strada, in che modo? E poi l'assessore alla sanità e al welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp ovviamente, l'800-24-0024 se volete intervenire in diretta. Ed è il momento del punto di giornata con Paolo Mieli. Caro Paolo, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno, oggi tocchiamo un nuovo record di contagiati nel mondo, superati i 40 milioni. Questo i giornali, ecco. Alcuni lo danno, altri non lo danno. Per iniziare con la consueta nota di ottimismo, caro Paolo. No. Contagiati non vuol dire malati, ovviamente, vuol dire, certo, che il virus ha toccato 40 milioni di persone, però sono una discreta cifra. Roma, come hai visto, è alle prese con i cinghiali. Non so se è per effetto del Covid, sì, vanno, sì, a rovistare nella spazzatura. Alcuni sono stati ammazzati. Il Messaggero dedica nella cronaca di Roma ampio spazio a questa battaglia di Roma con i cinghiali. E Trump è definitivamente impazzito, perché ha dato dell'idiota a Fauci. È stata pubblicata una sua registrazione in cui dice: basta, sono stufo degli idioti come Fauci. Fauci è il più noto virologo mondiale, e i giornali fanno il conto dei contagiati illustri. Un parrucchiere di Lilly Gruber l'ha costretta per la prima volta nella sua vita a registrare 8:30 da casa ieri sera, e sì, lo farà per tutta la settimana. La cantante Nina Zilli è stata contagiata anche lei, ma stasera andrà ugualmente in onda con Brignano su Rai 2 in uno show, ma è registrato, avvertono la Rai, sono un po' in imbarazzo. La prendiamo alla leggera, perché ti sei già occupato, sì, ampiamente, poi appunto ce ne torneremo ad occuparci di questo tra poco, lo faremo appunto con l'assessore Lombardo Gallera. Paolo, invece ti vorrei portare sulla politica, quella risposta di Giuseppe Conte sul MES, sul Fondo Salva Stati, l'altro giorno in conferenza stampa quando ha presentato il nuovo DPCM, forse è stato un po' uno scivolone dal punto di vista politico. Dobbiamo vederlo, perché le interpretazioni divergono su questa cosa, nel senso che lui ha dato chiaramente un ceffone in faccia a Zingaretti, poverino, l'abbiamo citato più volte, continua a dire il MES, e con lui tanti in Italia dicono che bisogna ricorrere al MES, bisogna subito ricorrere al MES. C'è un problema su questa cosa del MES. Io anche sono favorevole, non sono un ipercompetente, ma sono favorevole al ricorso al MES, però questo problema di tutti i paesi europei non solo non ricorrono al MES, ma Spagna e Portogallo ieri hanno dichiarato attraverso un'indiscrezione pubblicata dal paese che anche sul Recovery Fund loro chiederanno solo la parte regalata dei soldi, ma non quella prestata. E il Next Generation è un fondo, sì, è composto da due voci, una è a regalo e una a prestito, e quelli dicono, la Spagna, che è un paese simile a noi per condizioni di disposizione verso la pandemia, dicono: noi quelli soldi dall'Europa prestati non ci interessa. Sai, una volta che si è aperto i cordoni uno può fare ricorso ai soldi di debito pubblico, cioè quelli delle Next Generation, appunto, i soldi destinati ai figli, perché dovrebbe convenire chiedere dei soldi all'Europa che magari venga a guardare a casa tua? E la cosa più sorprendente per Zingaretti è che Gualtieri si è schierato, sia pure in modo felpato, con Conte, ha detto ma il MES vedremo, e quindi Zingaretti si è trovato spiazzato, ieri ha alzato la voce, per modo di dire, perché sì. Poi non ha nessun potere contrattuale, nel senso che questi governi, così di uno dice oppure me ne vado, oppure se no sì. Non ha nessun... Quello è un che po' diciamo, come la tua storia... No, dico quello la che dicevamo storia, sempre. Lo sapevo che lì era, sì, ma è la storia della caducazione del contratto con i Benetton per la vicenda autostrada. Proprio hai visto, no, che i giornali dicono che adesso i Benetton ci stanno guadagnando, il domani il giornale di Carlo De Benedetti accusa la De Micheli di aver fatto un sacco di regali, i Benetton hanno fissato una nuova scadenza, questo te lo dico a te che sei amante sì. Delle scadenze, per il 28. Questa volta, 28. Questa me volta segno, rinuncio a perseguitarti sulla scadenza. Ho segnato, è 28 perché? Ottobre è la prossima scadenza, dove a quel punto l'ultimatum è o fate l'accordo con Cassa Depositi e Prestiti per la cessione di autostrade, oppure facciamo un'altra scadenza. Oppure un'altra scadenza per la caducazione. Via così. Un'altra sì. Scadenza per la caducazione. Dunque, poi, sempre guardando sulle cose sui giornali, Calenda ha guadagnato dalla sua un'approvazione di Fabrizio Cicchitto e una di Lapol Khan. Il Fatto Quotidiano, che antipatizza per Calenda, lo mette in grande evidenza, cioè se vai avanti su questa strada vedi dove arrivi, Cicchitto e Lapol Khan, mentre Vittorio Feltri, a cui Calenda aveva riservato delle parole molto sgarbate, gli sconsiglia di presentarsi, ma chi te lo fa fare? Tanto è chiaro che non riuscirai con Roma a fare niente, neanche tu. Però il vero caso del giorno è il caso Davigo. Sì, i giornali sì. Non danno, a mio avviso, adeguata importanza, perché lì c'è stata una rivoluzione, nel senso che il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura gli ha votato contro. Qual era la questione? Davigo oggi compie 70 anni. Auguri. Sei in ascolto, sì. Sei in ascolto, ma tanti auguri. E voleva, nonostante andasse in pensione come magistrato, rimanere nel CSM, perché dice la Costituzione è chiara, dice che il mandato è di 4 anni, io 2 me li sono fatti da magistrato effettivo e altri 2 a norma di Costituzione me ne devo fare perché così dice la Costituzione. Molti magistrati, ma anche molti magistrati di sinistra, gli hanno detto di no, dice guarda non possiamo fare un'eccezione per te, e la cosa clamorosa ieri è che gli ha votato contro anche Nino Di Matteo, il magistrato del processo trattativa. E tant'è che il Fatto Quotidiano insorge, dice che il voto di Di Matteo è inspiegabile e sconcertante, sì. Dice Marco Travaglio, parole dure, è sconcertante, sì. Vuol dire. Poi dice che sono tutti dei Volta Gabbana nell'articolo. E così, come così. Mai Di Matteo? Di Matteo dice lo faccio con grande dolore, sì, con grande dolore, però anche però secondo fatto. Me c'è un sì, ma poi c'è un po' di risentimento, perché quando a maggio, ti ricorderai, ne abbiamo parlato tantissimo, Di Matteo si trovò ad avere uno scontro col ministro Bonafede per la vicenda del DAP, che gli aveva promesso Bonafede che lo avrebbe sì. Nominato a capo del DAP e poi non l'ha nominato, insomma tutta una storia che era rimbalzata sui giornali. Avevamo notato tutti, anche noi in questa trasmissione, che Davigo, che di cui Di Matteo è un braccio destro, sono amicissimi, stesso versante politico da molti anni, era stato zitto, aveva fischiettato lungo i muri, non aveva detto, non gli aveva dato grande sostegno. Beh, insomma, questa volta. Se vogliamo essere maligni. Tutte questioni di grande sostanza, Paolo, tutte questioni di grandissima sostanza queste tra sì, però dietro, siccome i giudici, i magistrati contano nella storia politica di questi anni, conta, tra l'altro ha votato contro anche Davide Ermini, vicepresidente, e tutti sottolineano che è escluso che il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura non abbia ascoltato Mattarella, non si sia... Sì. consultato col capo dello Stato, e anche questo è un fatto. Sì. Il Foglio dice: meno male, se n'è andato da Vigo, speriamo che non torni in TV, ma da Vigo ieri sera ha annunciato che parlerà a Piazza Pulita giovedì, e quindi sì, avrà un futuro come chissà importante opinionista televisivo. Mettiamola così, in caso, a proposito, dico, sì? Dico, a meno che non ci siano svolte politiche di qualche tipo, vedremo naturalmente, perché tu prevedi anche chissà, che diventi chissà un uomo politico, chissà. Questa volta ti do retta, è possibile. Quello che tu dici è possibile. Bassolino, hai visto, annuncia, fa capire di voler fare come Calenda, cioè se Calenda sfonda e riesce a candidarsi sindaco di Roma, Bassolino, che fu già sindaco di Napoli, Antonio Bassolino, ex comunista, sì, ex tutto, grandissimo nemico di De Luca, e quindi se dovesse vincere o anche solo candidarsi Bassolino, ne vedremo delle belle. I due si hanno in antipatia fin dai lontani anni 70, forse dagli anni 60, insomma, sì, militavano nello stesso partito, Partito Comunista. E quindi anche a Napoli, metaforicamente lo dico, potremmo vedere fuochi d'artificio. Sì. E poi a me, sì, dimmi. Vai, cosa hai visto di altro, Paolo? Dai, io aspetto Più te. Più che altro ho sentito nella tua rassegna questo caso del miliardario iraniano Hormoz Vasfi, che ha denunciato una fidanzata, lui è ultra cinquantenne, una fidanzata che è un'attrice, Sara Croce, una soubrette che lavora con Paolo Bonolis, 22enne, e vabbè, questa è una cosa, sì, che può capitare, e le ha chiesto indietro 1.051.000 euro. E la cosa, il dettaglio che mi ha colpito è che vuole farsi rimborsare anche, lei era fidanzata, a un certo momento hanno rotto, e la cosa che mi ha colpito, dicevo, che gli ha chiesto indietro anche il rimborso delle cialde di caffè e di una lavatrice. Ora, insomma, lo stile di queste cose è tutto. Sì, Sara Croce l'ha denunciato per stalking, facendo vedere sul telefono, non so, migliaia 450 messaggi. Sì, una cosa. Sì. Vedo che anche tu hai approfondito. Sì, ricordati, questi sono grandi temi, questi, no? Dopo Davigo, planiamo su Sara Croce. Sì, ma questi temi delle controversie giudiziarie, cioè delle vicende sentimentali o sessuali che finiscono in giudizio, sono curiose. Ieri c'era il caso di Linda Evangelista, che partecipa come testimone d'accusa verso il suo ex marito, che si chiama Gérald Marie, era sposata fra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, accusata anche lui di molestie. Il sindaco di Copenaghen ha dovuto lasciare l'incarico perché è accusato di molestie. Sì. Infatti le molestie sessuali sono un segno nel caso del miliardario iraniano, non ci sono molestie, però c'è stalking. Ormai le molestie sono lo stalking che c'è adesso. Sì, dicevo, sono i casi che sono un segno dei tempi, e quindi noi da bravi giornalisti seguiamo anche questi con grande attenzione. Grazie Paolo Mieli, ci risentiamo domani mattina dopo il GR delle 8. Ciao, ciao Paolo. Ciao. Ora è ora di avere un sito internet. È ora di vendere i tuoi prodotti online. È ora di farlo da solo. Perché è facile. Perché tu puoi. Con Supersite su aruba.it. Ed eccoci di nuovo, ancora e anche oggi, purtroppo, a parlare della pandemia. Buongiorno Giulio Gallera, assessore alla salute e al welfare della Regione Lombardia. Gallera, benvenuto, bentornato. Buongiorno. L'ultima volta che fu ospite nostro, il 7 aprile, eravamo nel pieno dell'inferno della prima ondata, ci disse che la Lombardia era stata investita da uno tsunami. Ora, se anche questo è uno tsunami, di certo era uno tsunami prevedibile, Gallera. Perché la Lombardia è già in emergenza? No, ma la situazione della Lombardia è una situazione difficile, analoga o leggermente migliore di quella di tante altre regioni. Oggi Campania, Lazio, Liguria sono messe molto peggio della regione Lombardia. Qui stiamo lavorando in via, se vogliamo, preventiva, nel senso che adottare misure restrittive oggi può aiutarci a evitare misure ancora più restrittive domani. Quindi, sapendo che cosa abbiamo avuto, oggi stiamo cercando di prevenire una situazione che gli studi matematici ci dicono potrebbe portare ad un incremento molto ampio di posti letto nelle prossime settimane. Questi studi matematici parlano, se ce lo può confermare, se non ho capito male, di tra le 600 e le 800 persone nel giro di un paio di settimane in rianimazione? Sì, diciamo tra le 400 e le 600 persone, insomma, potrebbe andare in rianimazione da qua al 31 ottobre se non si riducono quindi se non si mettono in campo misure restrittive e arrivare anche a 4.000 persone ricoverate. Fino a 4.000 persone ricoverate nelle prossime due settimane se non si mettono in campo le misure restrittive. Sul fronte degli interventi che sono stati messi in campo, Gallera, il numero di terapie intensive, appunto di posti in terapia intensiva, sono saliti, leggiamo dalle tabelle, poi chiedo a lei se altri ha dati diversi, sono salite da 861 a 994, avrebbero dovuto essere 1.400 e spicci, se non vado errato. Allora, no, le nostre terapie intensive sono... vuol dire, nel periodo dell'emergenza siamo arrivati a 1.800 posti letto di terapia intensiva, quindi noi la possibilità di ricoverare pazienti gravi ce l'abbiamo in maniera estremamente ampia. Il piano del governo prevedeva, diciamo, di raddoppiare le terapie intensive, quindi passando appunto da 700 e rotti dedicati alle attività monospecialistiche a 1.400. Su queste noi abbiamo fatto il piano, l'abbiamo inviato al commissario Arcuri e stiamo attendendo le procedure del governo che, ahimè, sono, come mi sembra stato ormai evidenziato da tutti, state troppo lente rispetto ai bisogni, perché il commissario Arcuri, che gestisce le risorse, perché le risorse per ampliare le terapie intensive non sono a disposizione delle regioni ma sono a disposizione del governo, non ha, il commissario non ha ancora individuato le aziende che devono fare i lavori. Quindi il tema è Arcuri, cioè quello che sta rallentando, che ha rallentato il raddoppio delle terapie intensive, è fondamentalmente il commissario di governo, dice lei, certo. Gallera. Noi il piano l'abbiamo presentato a metà giugno, è stato validato a metà luglio dal Ministero della Salute, noi eravamo pronti a iniziare i lavori, le nostre aziende sanitarie sono state individuate come soggetto attuatore venerdì scorso e non abbiamo ancora l'elenco delle aziende che dovranno fare i lavori, quindi l'accordo quadro che deve definire il commissario non è ancora stato fatto. Veniamo, Gallera, alla gestione sul territorio di questa pandemia. Era prevista la creazione delle cosiddette USCA, ormai è un termine che piano piano gli ascoltatori di Radio 24 stanno iniziando a comprendere perché ne abbiamo parlato spesso. Sono le unità speciali di continuità assistenziale. Cosa sono? Sono quelle unità che si occupano sul territorio delle persone malate di Covid che non sono ricoverate in ospedale e quindi gestiscono un po' questa situazione. Dovrebbero essere 200, da quel che abbiamo capito sono 46 in Lombardia e Milano è particolarmente sguarnita, visto che Milano è al centro un po' della scena in questo momento. Ma guarda, la nostra attività territoriale oggi è un'attività che è cresciuta fortemente ed è un'attività molto, molto puntuale. Tenga conto che noi negli ultimi giorni abbiamo fatto più di 30.000 tamponi. Non solo siamo quelli che ne fanno più in tutto il paese, ma quasi il doppio della seconda regione. Quindi tracciamo il 90% dei positivi sono asintomatici, segno che andiamo a correre dietro al virus facendo non solo tracciamenti, ma tamponi a tutti i contatti stretti, a tutte le persone che sono suscettibili. Quindi questo è un imponente e importante lavoro che stiamo compiendo. Il problema del reclutamento del personale è un problema nazionale, nel senso che non si trovano le persone. Il tema delle USCA è legato al fatto che di solito chi ha svolto nei mesi scorsi questi lavori sono quei laureati in medicina che non riescono a entrare nelle scuole di specializzazione. I concorsi per le scuole di specializzazione sono tra settembre e ottobre, e quindi di fatto queste persone che erano arrivate a essere, noi avevamo 90 USCA nella nostra regione, a settembre si sono dimessi per fare il corso di specializzazione. Quindi contiamo, appena concluso questo, di riuscire a rimpolparle, così come sul resto delle figure, gli infermieri di famiglia e altro. Oggi c'è una penuria, noi facciamo bandi secondo le indicazioni ministeriali, quindi per concorsi a tempo determinato, perché questo è quello che ci consente il governo, e non riusciamo a trovare personale. Però Gallera, mi permette una cosa, ci sono regioni che le USCA le hanno già attivate, se non tutte più o meno ci siamo, penso, tanto per fare un esempio, all'Emilia Romagna, no? Che ne ha attivate 80 su 4 milioni e mezzo di abitanti, quindi più o meno ci siamo, la Lombardia ne deve fare... Non ho notizie dell'Emilia Romagna, ritengo dai contatti con gli altri colleghi che in questa fase anche loro vivano lo stesso problema, cioè a noi le avevamo fino a luglio e poi si sono ridotte a fronte del fatto che le persone che svolgevano questo lavoro lo facevano chiaramente in via provvisoria in attesa dei concorsi e del percorso di specializzazione, quindi noi le riattiveremo. Quel lavoro oggi viene fatto da altri, perché abbiamo gli infermieri, abbiamo le attività dell'ADI, cioè dell'assistenza domiciliare integrata, cioè non è che il lavoro che devono fare le USCA non viene fatto, il lavoro di presenza sul territorio, che è preziosissimo, viene fatto da altre figure. Ascolti, la questione tracciamento l'ha citato lei. Nelle scorse ore abbiamo sentito De Micheli dell'ATS che diceva guardate, se avete avuto un contatto sospetto, a questo punto è meglio che ve ne stiate a casa, perché non siamo più in grado di tracciare i contatti dei contagiati. Cosa dice su questo? Diciamo questo, che per quello noi stiamo adottando oggi misure restrittive, perché se è vero che fortunatamente oggi il virus sta colpendo persone più giovani e quindi le persone ricoverate e soprattutto gravi sono molto meno, se non interveniamo nella riduzione della diffusione il sistema andrà sempre più in crisi e la situazione di Milano... Ma quindi Gallera, mi scusi, ci conferma che in questo momento la regione non è, o la regione per meglio dire, le unità che si occupano di questo in Lombardia non sono in grado di tracciare i potenziali... No, noi tracciamo, c'è una situazione di criticità nella città di Milano, che nella TS di Milano, che negli ultimi giorni ha avuto quotidianamente tra i 1300 e 1400 nuovi positivi, e quindi è evidente che quando io devo fare quello che diceva il dottor De Micheli, devo fare un'intervista ad una persona il quale ha avuto in questo periodo dalle 30 alle 50 contatti nei giorni precedenti, e lo devo fare per 1000 persone e poi devo fare per ognuna di queste 50 telefonate per avvisargli di stare in isolamento, e dopo 15 giorni chiamarli per il tampone di controllo, capisce che questo vuol dire ogni giorno fare 10.000 telefonate. Uh-huh. Ecco, allora è comprensibile, penso, a tutti. Noi abbiamo potenziato il contact tracing della città di Milano da 40 unità a 200 unità, quindi sì. Noi oggi abbiamo 200 persone che fanno questo tipo di lavoro, ma evidentemente se noi continuiamo ad avere 1.300-1.500 casi nella città di Milano, quello che ha detto il dottor De Micheli, che questo mette in sofferenza i servizi. È la situazione di Milano oggi, l'unica situazione un po' difficile, ma stiamo lavorando anche su questa, e ripeto, il numero dei tamponi fatto paragonato al numero di asintomatici dimostra che il tracciamento in Lombardia è importante, solido e sta dando dei risultati significativi. Ieri è partita la campagna per l'antinfluenzale, c'è stata un po' di confusione, Gallera, da quel che abbiamo capito, sui vaccini per l'antinfluenzale in Lombardia. Vanno coperte, teoricamente, ammesso che lo facciano tutte queste persone, 3.800.000 persone, che sono quelli di una certa età, i bambini tra 0 e 2 anni e i soggetti a rischio. Lei ci può assicurare qui ed ora che ci saranno per tutti i vaccini? La confusione l'ha fatto chi ha voluto fare polemica, e ieri abbiamo iniziato a smentirli. La campagna è iniziata il 19 di ottobre, perché i vaccini sono oggi nelle disponibilità dei medici di medicina generale, ed è partita quindi in linea con quello che è successo nelle altre regioni e prima dell'anno scorso, e secondo il calendario influenzale definito dagli esperti, che dicono che noi la vaccinazione copre per 3 mesi e il picco arriva in Lombardia tra gennaio e febbraio tutti gli anni, quindi la vaccinazione andava fatta adesso e nel mese di novembre. Abbiamo comprato 2.900.000 vaccini, che sono il 130% in più dell'anno scorso e che copriranno, così come previsto dal Ministero della Salute, l'obiettivo target del 75% di quelle fasce che sono gli over 60, gli operatori sanitari, i fragili e i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni. Abbiamo peraltro dei vaccini che sono fortemente innovativi e quelli che coprono di più in Italia, dai tetravalenti a quello per i bambini spray. Quindi Regione Lombardia anche in questo offre, secondo i tempi giusti, le dosi giuste per coprire. Però 2.900.000, mi scusi, 2.900.000 vuol dire che se per caso tutte queste persone decidessero di fare il vaccino, tutti solamente, diciamo, fragili, anziani, bambini, non ce ne sarebbero per tutti. Ma scusi, non c'è, guardi, in Lombardia l'anno scorso l'ha fatto in 4.000, l'ha fatto in 1.300, cioè il 48% dell'obiettivo target, e nessuno in Italia ha mai fatto delle cifre, vuol dire il 100% non è mai stato fatto da nessuno. L'obiettivo che infatti il Ministero ha dato è il 75%, che è un obiettivo realistico a cui noi dobbiamo tendere, ma ripeto, saremmo molto felici di raggiungere questo importante obiettivo. C'è chi non lo vuole fare, chi è restio, chi per altri motivi, insomma, sarebbe già un grande successo se in Italia raggiungessimo un dato del genere. Grazie Giulio Gallera, assessore al welfare della Regione Lombardia e alla salute naturalmente. Grazie per essere stato con noi, buona giornata e saluto Achille Variati, sottosegretario all'interno. Sottosegretario Variati, buongiorno, benvenuto. Grazie, buongiorno. Cos'è? Finisce tutto in capo ai sindaci questa storia di chiudere le piazze, le strade, o a chi finisce, che ancora non l'abbiamo capito dal testo del decreto? Guardi, il governo domenica aveva due possibili strade per cercare di bloccare il diffondersi dell'epidemia. La prima, una chiusura generalizzata sui locali, notturni, pub, bar, ristoranti, indiscriminata su tutto il territorio nazionale. Il comitato tecnico scientifico che guida la mano della decisione politica del governo ci ha detto che in questa fase ancora, e speriamo che questo ancora poi rimanga tale, non ci porta necessariamente a questo provvedimento, mentre generalizzato, mentre sarebbe assai opportuno un intervento chirurgico, mi passi questo termine, in quelle piazze, in quelle strade, in quei locali nei quali il distanziamento di un metro da bocca a bocca, da persona a persona, per le relazioni che la polizia fa eccetera, non è garantito. Allora, se dovevamo e pensiamo di fare degli interventi locali, l'unica autorità locale che può intervenire per legge con motivazione sanitaria, di cui all'articolo 50 e 54 del testo unico degli enti locali, è il sindaco. Il sindaco è l'autorità sanitaria locale. Qual è l'equivoco che è nato, secondo me, per un difetto di comunicazione, forse anche per colpa del governo? L'equivoco è questo: non è che il sindaco viene, per così dire, sul disgraziato del sindaco, mi passi questo termine, io sono stato sindaco per 15 anni, lo sappiamo, e quindi so bene le sofferenze, le tensioni dei sindaci. L'equivoco è stato: non è che lo Stato abbia voluto scaricare la responsabilità del sindaco lasciandolo in solitudine. Non è così. Il sindaco ha la capacità di firmare un'ordinanza, ma quell'ordinanza deve essere condivisa nel Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica, dove ci sta il prefetto, ci sta il questore, ci sta il comandante dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ed è lì, sentita l'azienda sanitaria locale, perché la motivazione è sanitaria. Sì, che si decide a quel punto. Si decida. A quel punto la responsabilità poi dell'applicazione, dei controlli di questa ordinanza, resta anche in capo a problemi di sicurezza e di ordine pubblico, che sono propri dello Stato, quindi del signor questore, ed è lì dove le chiusure vanno decise, mi passi il termine, con ragionevolezza, cioè quando serve e nel numero giusto che, su cui poi, per il quale poi si possono fare i dovuti controlli. Variati, non ha l'impressione che questa rivolta dei suoi ex colleghi, diciamo così, dipenda molto banalmente da ragioni politiche? La gente è un po' stanca, mettiamola così, della pandemia, e il fatto di prendersi la responsabilità di chiudere una piazza o una strada non è molto popolare, che dice? Ovviamente tutto ciò che non è popolare è sempre per certi aspetti sgradito, no? Però guardi che nella storia repubblicana i sindaci non si sono mai tirati indietro, ogni qualvolta c'è stato bisogno della loro presenza in prima fila. Sempre un sindaco, che sia eletto in liste di centrodestra o di centrosinistra o civiche, alla fine il sindaco è il sindaco, è il primo cittadino di quel territorio e uno non, la responsabilità non se la toglie mai. Secondo me, forse per un difetto di comunicazione nei pre-incontri di domenica, sì, i sindaci hanno avuto l'impressione di essere stati strumentalizzati e lasciati soli. Sì. Quindi sì, un po' di problematica politica e di gestione del consenso c'è e c'è stata, ma anche questo senso di solitudine che invece assolutamente non volevamo produrre. Sì, che poi la, ci metto anche lei, appunto perché è stato il suo mestiere per lungo tempo, Variati, per 15 anni, beh, c'è anche una questione di, non so, voi siete quelli delle ordinanze creative e adesso c'è paura a chiudere una piazza o una strada, fa un po' strano anche questo. Infatti, però, veda, se un sindaco dice sì, ma io la strada la chiudo, ma poi io sono in una cittadina media da 40, 50, sì, 60 mila abitanti, la mia polizia locale a mezzanotte finisce l' ultimo turno, io non ho uomini e mezzi per poter fare il controllo sulla mia ordinanza e non voglio sembrare il pellegrino che ha firmato un'ordinanza e poi è una firma che non serve a niente. E quindi aveva bisogno di sentirsi dire che quella sua ordinanza, una volta concertata con il signor prefetto, quella ordinanza verrà poi, come dire, adempiuta, verrà controllata, verrà realizzata. Ecco, è questo che penso abbia prodotto la reazione principale. Però ieri ci siamo anche abbastanza capiti. Oggi sta partendo una comunicazione ai prefetti della Repubblica da parte del Viminale che chiarirà questi aspetti nei dettagli, questi aspetti che le ho sommariamente. Oggi arriva la circolare del Viminale, sì, ai prefetti, sì, con i dettagli per chiarire come operare, cosa fare nel comitato per l'ordine e la sicurezza e via dicendo. Esatto. Quindi la responsabilità sarà alla fine dei controlli eccetera eccetera, sarà su di loro, sarà sui prefetti. La responsabilità sarà condivisa, nel senso che il sindaco è l'autorità che emette l'ordinanza, però l'ordinanza concertata in comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica poi viene assunta come responsabilità collettiva anche appunto da parte della forza pubblica. Grazie Achille Variati, sottosegretario all'interno, per questi chiarimenti. Vedremo cosa succederà, se tutto questo tranquillizzerà i sindaci. GR24, noi ci risentiamo ovviamente domani mattina alle 6.30, Carmelo Lauricelli in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e in redazione, insieme in redazione a Gloria Guerrera, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Francesco Ceraffo, i nostri autori. Noi ci risentiamo domani mattina appunto alle 6.30, una buona giornata da Simone Spezia, ciao! Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.